ciao Gianni, sì, Gianni Capri, scusa, mi stavo confondendo. Sì, ciao, ti sento. Oh, sono a casa, sto usando di solito. Ciao a tutti, ciao Gianni e ciao Claudio. Va bene, ma non avete risolto ancora con questo benedetto telefono che stavo cercando di chiamare anche al mobile, però non ci sono riuscito, ci sono le pareti spesse. Già, lo so che sono scocciature queste. Comunque, per dirti, poi vabbè, quello che ti devo dire al telefono è un'altra cosa. Lo sai che ho comprato un'altra stazione base, mi avete contagiato la mania? È un Santiago di 4, però la radio va bene, mi piace. Non è distorta, va bene. Un attimo. Cosa hai detto, scusa? È il solito, il K430. Kodiak, non so il modello, sono praticamente il modello vintage stazione base che ha 16 canali, 2 watt per la Germania. È azzurro, capito? È azzurro. 4 è salito a 7, però la radio è più bassa adesso, capito? Già, un attimo, il telefono, arrivo subito, scusa. Ci sei? Si è abbassata, non capisco bene adesso come lo stai dicendo. Oh, sì, tu, il problema è una parlante che ti stava coprendo, ma penso che forse è come hai alzato. No, no, era uno che ti stava coprendo. Sta sempre male, sta andando male. E tu schiava il territorio 27075. Sta andando male. No, non mi piace. Non lo so. No, non mi piace. C'è qualcuno che può aiutare se non è che sta coprendo? Perché ti sento male. Dai, gli ricambio la fila. Ho capito, però non sta andando bene. Oh, la batteria, non lo so. Capisco come se ti metti qualcosa davanti alla bocca, praticamente. Mi sento un riso qua. Capito il passaggio, scusa? Ho capito che si chiude arrugginito, però va sempre male. Capisco mai quello che dici. Non sto capendo niente. Non capisco cosa sta succedendo. Questo c'è la mia radio? Sì, la mia radio ha anche l'FM. Ah, LSB, USB, CW, MFM. Sì, sono tornato. Mi senti adesso? Fai un altro passaggio, scusa che stavo... Vai. Devo smettere un po' a varo. Non so dirti precisamente il segnale, però non si alza lo smitter. Però la radio è buona, ti capisco bene. Vediamo se c'era qualcuno che doveva entrare sul 27.75, che l'ho sentito prima, per vedere se riusciamo a fare le regolazioni. Perché, ma forse era la batteria, perché stavi dicendo anche tu che è per quello. Allora ti ricadi. Adesso proviamo a sentire se va meglio adesso. Ricado. Gianni, Gianni, Giulio, ci sei? Mi senti? Mi ascolti? Sì, ti ascolto, dimmi. Ah no, scusa, è perché stavo provando a vedere se ero io il problema, che non ascoltavo male a Gianni. Comunque, ciao Giulio, grazie per essere entrato. Avanti Gianni. Io non lo sento a Gianni. Lo senti? A Gianni io non lo sento. Ah, scusa, non lo sapevo, se no non te l'avrei chiesto. Non fa niente, perché dove si trova? Trova a casa, però stava provando il microfono con il baracchino, mi sembra, se ho capito bene, e forse aveva la batteria scarica, perché era incomprensibile. No, forse stavo usando quel portatile che ha. No, Gianni, che cosa stavi usando prima, quando ti ascoltavo male? Giulio ha detto stavo usando la LAN 48 e dove c'era la batteria scarica dell'MB più 5. Ah, ho capito, allora. No, qui non arriva proprio, Vabbè, scusa se sei disturbato, non sapevo che non ti arrivava lì. Ok, vabbè, non fa niente, non ti preoccupare. Sì, c'è un po' di propagation. Lì ci sei, muro, ci sei. Guarda, siete tutti scappati? Faccio gli ex. Attention please, if you copy Alpha 21. Bene, benissimo, America, scusa Alpha 21, Alpha 21, le stai chiamando in frequenza, buona tarde. America, scusa Alpha 21, le stai chiamando in frequenza. Io, non c'è rimasto nessuno. uno, tutti scappati siete. Gianni, ci sei? Attention please, if you copy Alpha 21, Alpha 21. C'è nessuno con cui posso fare QSO? Canale 10, 27.075, c'è qualcuno? Nici, sei ancora? Gianni, sì, Gianni Capri. Questa mi sembra molto rifarsa, così forte. Non lo so, non lo so, non mi fido molto. Attenzione, canale 10, c'è qualcuno? Cosa hai detto, scusa? Canale 10, c'è qualcuno? Ho detto di chiamarmi. Ci sono io. Me ne va. Ciao Natalino. Salve a Riccardino. Già t'ha sentito. Saluti da Concetta, Ricca. Cambio. Ciao Concetta. Visto. Ciao Riccardino. Ciao. Natalino, cosa mi racconti? Sì, e cosa ti devo raccontare? Mi me ne sono alzato, adesso è acceso e ho sentito la voce tua. E io lo devo portare a curso adesso. Cosa? No, scusa, no, non sai raccontare niente. Cosa hai mangiato, dai, di bello? Minestra e ricotta oggi. Cosa? Io ero dispaghettata di mare. Forse me la faccio domani quella spaghettata di mare. Ah, che buona, domani. Lainu, a ti immagineggi cosa sta mangiando, eh? Domani è venerdì, sì, ci facciamo una spaghettata di frutti di mare. Ok. Ali, mica io tanto domani non mi batterai mai. Ieri ho mangiato una pizza e mezzo, oggi ho mangiato la spaghettata di mare con la casciata e poi domani vediamo cosa mangiare. Stavo rispettivo. Ma sono tutte cose che io so cucinare. Ma Riccardino, e li faccio spesso e volentieri. Pasa. Oh, adesso abbiamo fatto anche le scorte, siamo a tre confezioni di gelato di cassata. Sì, alla faccia. Di propagation. Propagazione c'è. Sì, un po', sono andato sul 27555 e stavo provando. Natalino, non mi ricordo mai, me lo devo scrivere, aspetta che se cerco una penna adesso e mi dici che cosa devo trovare. No, questo non va bene. Non va bene. Cosa, il mio nominativo all'inizio, perché me l'hai detto più volte, però non me lo sono mai segnato. Aspetta che cerco una penna. Cerca la penna che te lo dico io. Fischia, mentre cerco una penna. Ok, non c'è problema, zecca che c'ha penna, dai. Dimmi, dimmi Natale, dimmi che come si deve. Allora, il nominativo internazionale 165, capito? E poi ci metti tre lettere al limite che piacciono a te. Dopo l'165, capito? L'165 è il nominativo della Sardegna. Ma già me lo sono segnato, non te lo chiederò più, mettiti adesso o puoi metterti il cuore in pace. Voglio vedere. E poi ti metti altre tre lettere che piacciono a te, capito? Dopo il prefisso. Adesso più tardi se faccio di ex uso quel foglio. Prima usa un blocchetto così e dopo quel foglio trascrivi su quel foglio lì dopo averli scritti in brutta copia in un pezzo di carta, capito? Prima usa il pezzo di carta, devi segnarti il nominativo, l'orario e il segnale che ricevi, capito? Quelle cose lì. Poi già c'è scritto nel logo cosa devi segnarti. Ma sai, c'era qualcuno che fischia ma non era preparation. Ascolta, ma non hai una cosa da insegnare? Ah, come esce questo? Se bene, non c'è problema. E cioè il segnale quant'è? Santiago 7, Radio Super 5. Addirittura, ascolta. Sì, Santiago 3, la radio è comunque sempre buona. Ho capito, quindi stai chiaro che così va bene, va? Andare. Allora va così. Hai anche picchi positivi, qualche volta arrivi anche a 9. Non ti ho riconosciuto il tuo QRZ, dimmi subito se sei leoncino oppure mi sto sbagliando. Non è che mi chiama, hai detto? Leoncino, Questo è Emanuele Ginco, capito? Si chiama Emanuele Ginco, zona Lima Delta, K. Scusa Emanuele, io non ti riconosco qualche volta, lo so dove abita Emanuele, so l'indirizzo, so il numero, so che cosa ho mangiato a pranzo, non c'è problema Nathalie, non mi ricordavo solo la voce, scusa Emanuele. Emanuele! E me Natalino, Sassari! Sarei molto bella! E beh Emanuele, cosa mi racconti? Dale! Natalino! Oia, dimmi Ricca, che sta mettendo la pettorina a Kurt, Concetta lo deve portare a fare i bisognini, è una passeggiata. Guarda, no, scusa, me lo sono ricordato adesso, non ho ragionato, che hai detto, me l'hai detto prima che ci fa male il ginocchio, pensavo che era già passato un giorno. E infatti, un po' il ginocchio già mi fa male. Uia, comunque dice che è uscito il sole, così è. Uscito il sole, adesso è bello, stamattina era brutto, molto. E stamattina sono uscito a portare il cane e c'era pure freddo. Già lo so, l'ho visto, siamo usciti, infatti c'era freschetto, mi sono dovuto mettere il giubbotto, cioè mango d'estate. Lo so, stamattina eri in macchina, hai detto che rientravi e invece in isba. Sono rientrato e non c'era più un Cristo, non c'era più nessuno con cui potevo fare queste cose, siete tutti scappati. Perché sono entrato, stavo facendo compere a babbo quando stava girando per trovare quello che gli serviva e quindi siamo rientrati tardi in macchina e non c'era più nessuno. E io sono andato via all'ora di pranzo, non è che sono andato via subito, no? È entrato Giulio e insomma già è entrata la gente e tu che non c'eri. Ho capito, va bene, non c'è problema, già mi rifaccio dopo, non c'è problema che faccio tanti queste ore. Comunque questa antenna quando è che la solleviamo? La me è difficile, tu non l'hai vista com'è, però viene difficile a salirla, non è tanto facile. Ho capito, va bene, non lo so, no, in realtà dico non l'ho vista, però già ho visto com'è il tetto, sarà difficile sollevarla. Io pensavo che eri in un posto diverso, pensavo che eri attaccata alla chiesa, invece sei più in fondo. Più in fondo sono, e allora? Io l'ho detto che ero dopo il tabacchino. Il mio vicolo è dopo il tabacchino, appena dopo il tabacchino. Capito. Sì, alzarla non ci vuole molto, no? Basta attaccarla, mettersi sui due piani, uno su un piano, uno su un altro e uno a terra o due. Basta aggiungere un tubo un po' più grosso da 2 metri, 2-3 metri e vedi che sale l'antenna. Io mi sono comprato il materiale perché mi voglio costruire un dipolo così tanto per svago che lo posso attaccare sopra il tetto di casa intanto che aspetto l'antenna. Se sto aspettando che fra qualche giorno ordino l'antenna da mettere sopra a casa, la Blizzard è quella che ho adesso. Ho capito. E cosa ci vuole a farsi un dipolo? Non ci vuole niente. Quindi per vago mi piace che me lo faccio, almeno sarò più basso, però almeno posso parlare con qualcuno dentro casa, perché ieri sera ho dovuto prendere la carriola per portare il tutto dentro, non c'è, che non degli apparati da portare dentro, o il sai quale, poi ho il sai quale, o anche il sai quale. TK. Ma fuori ne avrei portato uno solo, li avrei lasciati tutti dentro, capito? Fuori non è lasciare, no. Lo so, infatti li porto sempre dentro, capito? Perché babbo li porta qualche volta fuori perché li usa un po', perché quello che hai tu, quello che ho comprato l'ultimo, quello grosso, lo stazione base, quello più grande di tutti, quello da un bel che non girava, infatti lo usa tutto il giorno e lo porta fuori. Poi c'ho il mio, quello personale che sto usando adesso, personale, vabbè, che lo uso quasi tutti i giorni, e porta soprattutto le stazioni base. Ho capito. Il bel canale, tu c'hai Alfa 21, che mi stai chiamando in frequenza. Natalie, ma tu la senti un po' di preparation oppure no? E stamattina la sentivo un pochettino, c'era la Spagna, perché quelli arrivano sempre sparati qua. Ci credo, quelli quando li ascolto qualche volta sento che mettono tipo 8 kg, 8 kg, no com'è, vabbè, 800 watt, mi stavo confondendo, mettono 800 watt, quelli che mettono 200 watt, è un bel di potenze mettono. Vuol dire che loro lo possono fare, io sto scendendo con 3 watt e più di quello non posso andare neanche a 5,5,5 io, perché questo è bloccato. Capito, perché è omologato ed è bloccato, non funziona il selettore di canali. Capito? Perché c'è l'altra versione che ha 240 canali, invece questa ne ha 40 solo. Capito, quando sei da queste parti che stai passando in campagna, vieni che ti fai dei bei DX qui a casa. E ti mostro come si fa certe cose. Vabbè, quando salgo a campagna già ti faccio chiamata, tanto mi devo fare l'alimentazione per la macchina, che le avevo tutte staccate, ma ne ho lasciato una solo, però è staccata dalla batteria. Siccome ho la macchina un bel lontano, devo andare a recuperarla, se c'è un posteggio qua, me la posteggio qua e mi faccio i lavoretti che devo fare. Tanto l'antenna ce l'ho in campagna mia, mi basta avvitarla alla base ed è tutto a posto. Ho capito, Natalia, e così ti faccio vedere anche la superstazione che fra qualche giorno sarà dentro. Cappa. Sì, mica che qua fai, come ti ho detto, dei baby ex, che qua ci sono anche tanti watt, tu non puoi mettere tanti watt, quanto hai detto, hai 3 watt. Da 3 watt questo baracchino, l'altro anche di meno. Quando scivo con l'altro scivo un bel più basso. Ho capito. Lo so, se vedi, vabbè che ne vuole comprarne, però c'era questo, cioè, come dire, ce la siamo giudicata, me lo faccio di sapere. Questo che vendeva la stazione base, 16 canali, giusti, ed era praticamente 2 watt, 2 watt e mezzo arrivava, ed era una bellissima stazione base Zodiac. Ho capito. A me mi piace quel ricevitore che ho visto. Devo buscare un ricevitore per ascoltare le HF almeno. Tanto la licenza ce l'ho, quello non mi fanno niente se mi trovano il ricevitore. Capito, mica ce ne tanti, ma ne sta subito, su internet, tipo, è bello, mi piace molto l'ICOM ICR 7000 o il 7100, il Kenwood TS, vabbè, con 340 che non fa molto, fa da 0 a 30, però l'ICOM ICR 7000 fa da 0 a 2000 mi sembra. Sì, ce l'avevo quello lì, ICR 7000 l'ho dato. Le mani mi dovevo tagliare. Penso che il mio ce l'abbia Roberto adesso, quelli CR 7000. Lo sai che quando vendi un apparato, vabbè, anche altre cose che fanno dei giri strani e poi arrivano a conoscenti mi aspetta. Ancora il blocco, devi togliere il blocco, non so cosa. Già lo so. Ciao Ricca. Claudio. Ed è quello che io ho dato a te, così è. Esatto, 1, 2, 3 abbiamo fatto. Cara cara, e adesso sono senza ricevitore io. Vabbè, quello lì mi sarebbe piaciuto perché almeno mi ascoltavo le HF. Infatti adesso sto cercando di poter ricevere col computer, perché non avendo il ricevitore mi do cacuccia 40 canali e boh, non posso ascoltare altri canali, capito? Questo è bloccato e boh, rimane così. E io piano piano col computer lo prendi. Babbore, io sono in ascolto, piano, ci sentiamo in un'altra occasione. Va bene, ciao Claudio, lo so, è bello l'ICR 6000. Io ho avuto prima di essere animatore tutti i ricevitori, e poi mi sono stufato e mi sono comprato i ricetrasmettitori. Va bene, mi saluto, sono entrato a salutarvi, non voglio parlare, ciao. Ciao Claudio, ciao, buon proseguo. Riprendi Riccardo. Riprendo. Sì, aspetta, non mi ricordo il nome. Quanti anni hai sul tuo cane? Curto, c'ha 5 anni deve fare, là. Guarda, io ho perso l'età di tutti, mi ricordo solo di quello più anziano, il bassotto, 5 anni ha già. No, adesso ne ha 16 anche pure. E quelli sono belli. I bassotti sono belli. Che noi piacciono molto, abbiamo l'allevamento. Dei bassotti. Positivo, allevamento bassotto. E li vendiamo. Quelli costano. Ma neanche tanto costa, 300 euro. Sono belli. Quelli lì mi piacciono, i cani. I bassotti. Il bassotto tedesco è bello. Lo so che sono belli, mi piacciono molto i bassotti, però mi piacciono più i passeri australiani. Quello non lo conosco. Aspetta, ti mando una foto di Gold. Buon Natale, te la sto mandando, dimmi cosa ne pensi, vediamo, sta caricando adesso. Lino non risponde. Aspetta un attimo, sto guardando una cosa. Casa. Cosa stai cercando? Passeri australiani? No. Aspetta che lo guarda, è bello questo. Sì, Natalino, ti ho sentito che mi sono spostato, mi stavano chiamando e sono tornato adesso. Bello questo cane. Cane sugane. L'ho visto, è bello. Lo so, ne abbiamo 3 di quelli. Alla faccia. Lui è il maschio, poi c'è la femmina e la figlia. Cappa. No, mi basta già quello che ho io, boh, basta da. Basta, ti faccio vedere questa cartina base che ho visto. A me piace, commentamela, lo so che forse non la puoi tenere, però dimmi cosa ne pensi, se ti piace. E cosa? Cosa, Riccardo? Mando la foto di una stazione base, me la commenti. Lo so che forse non la puoi tirare, però me la commenti se ti piace solo. Ok. Manuel, non ce l'ho più, no, il gatto, che me l'hanno ucciso, capito? A 12 anni è morta, poverina. Giocava col mio cane. Aspetta un attimo che devo vedere una cosa. Bella, bellissima. C'ha il microfono precompresso. Oh, il veicolare di quello, della stessa marca, e il fratello. Quello lì ce l'aveva un mio amico che non c'è più, quello lì. Ce l'aveva un tuo amico, capito. No, è bello, ma proprio la stessa marca, oppure che si assomigliava? No, quello. Ah, proprio quello. Quello aveva, vai. Ma stavo dicendo, ti devo dire qualcosa, ma a chi? A me o a Emanuele? No, vi ho detto a Emanuele che basta con i cani, io non volevo neanche questo qui, perché io avevo un pastore tedesco che l'avevo anche addestrato. E mi è durato poco, diciamo così, 8 anni e boh, e poi è morto, si è ammalato e è morto. e non ne volevo cani. Infatti questo che abbiamo qua è intestato a mia moglie, perché io non ne volevo cani, anche se lo tratto bene e tutto, però non ne volevo cani. Ti davo un bassotto, me lo dicevi. E magari andava anche meglio un bassotto per qua, perché il posto è piccolo. Sicuramente il bassotto va meglio, dura 20 anni, è compresso, è un po' lunghetto, il soprammobile sta benissimo, non c'è problema, il bassotto era adatto. Lo so, questo qui non è neanche puro, è un incrucio questo cane qua, ce l'hanno passato per pincher, noi pensavamo che era un pincher di quelli piccolini, invece è diventato di mezza taglia. Ho capito, l'ho visto, sì, dalla tua foto, si vede, però non è brutto, si vede che non è puro però. Vabbè, però è bello come cane. Bello, simpatico, intelligente, è intelligentissimo anche. È intelligente? Sì, se mi avverte quando vuole coricarsi, quando vuole andare a fare la pipì giù da solo, io lo faccio scendere, lui fa la pipì e se ne sale. Capito? Perché io lo chiedo e lui mi risponde se sì o se no. Sì, ho capito, invece i nostri l'unica cosa che sanno fare, uno quando gli dici molto il sardo praticamente si mette a pancia in su, poi è l'unico che sa fare qualcosa dei bassotti, poi gli altri sono solo i pastori australiani che fanno che sono più intelligenti. No, questo è intelligentissimo, furbo come la... non sembra vero, un amico mio non ci voleva credere. Cata, il giorno che è venuto qua, quello lì doveva andare a fare la pipì, si mette a baiare, gli ho detto cosa vuoi? Ma devi andare a fare la pipì, e lui wow, e muove le zampe di davanti quando deve andare, no? Ma tu lo devi vedere. Io allora gli apro la porta e lui scende e lo guardo dalla finestra io. Aspetta, ti faccio qualcuno. Saluta. Saluta! No, non c'ho voglia. Saluta. Dai, saluta Zia Natale, non ne ho voglia. E chi è? Sister, se capisci l'inglese. Tua sorellina. Il positivo, mia sorellina. Saluta, dai, a Zia Natale. Ciao. Zio? Ciao bella Bè. Aspetta, continua con lei, visto che lei è qui, io vado a stampare 2 fogli per i queste oche, me li hanno strappati, e quindi guarda se c'è ancora Emanuele, che faccio in fretta tanto, devo stampare 2 fogli. Cappa, va bene. Manuel, ci sei? Vai, Natalino, grazie. Avvirumi. Sta arrivando bene, Emanuele. Ehi. Franco. No, la voce sente bene adesso, dai. Comunque è pronto quel microfono, se lo vuoi, bassa e ti rubigli. Anda bene, Meda. Io quello a 8 l'ho tolto, così almeno lo puoi già saldare. E lo metti, e gli metti quello suo, là. Io devo andare da Fusaro, mi devo buscare uno spinotto TV di quelli che si attaccano alla televisione, perché devo fare uno spezzone a una chiavetta USB, no? E poi dall'altra parte il PL, così funziona per sentire le altre frequenze pure col computer, capito? No, non è a vite, è TV proprio l'attacco. Ci vuole uno spinotto TV. Io manco una prolunga, ciò qua, toglielo. Capito? e quindi me lo devo comprare, poi mi devo comprare anche di quei coccodrillini per aggiustarmi quell'affare che mantiene i pezzi quando li saldi, e poi devi fare degli spezzoni col coccodrillo e col puntale. Come? Ma i termorestringenti stai dicendo? E anche quelli mi devo comprare, che servono. Li scaldi e sono termorestringenti, no? E così rimangono isolati le cose. Anda bene, è un rotolo di stagno mi devo comprare, che lo sto finendo. E allora, da Fusaro, e dopo vuoi prenderlo. La GBC è una farmacia, purtroppo, capito? È una farmacia la GBC, non conviene manco andarci, perché ti fa pagare la cosa col sale, col pepe, Manuè. Saldatore già ce l'ho, l'avevo preso da Fusaro, ce l'ho parecchi anni e funziona bene, a chiunque mi danno i vati pari, mi avrà detto userà sicuramente e mi l'ha fatti pari. Cosa Manuè? Ehia. Cos'è Bobo? Signor, non c'è, è uscito, dillo a me che sono il suo segretario. Manuè, più manzano della nivenda beffa, della cucendi su chi tu canari, beh, mani fatto così arredì tutti canti. Tutti chi ci vedono in chi su canari. E allora, con te così erano i biglietti, già ne erano i disegni poco di cosa. È entrato un amico tuo, un vicino tuo, Ettore. E ne erano i disegni tutti i colori, i rigidi, i disegni, papi, rigidi pucaccioni, cazzo, già ne erano i disegni poco di cosa. Ma ti si chiedo, cazzo, sono andato a ciappallo, pieno, non ve la posso di nuda, solo lì ci viva via, c'è la via pochi ya. E oia. Milumi, tu tornato, sì? Sì, perché non vuole giocare con Pablo. Oh. Lo rinvia. A Pablo. E vuol dire che l'ha fatto qualche cosa? Niente gli ha fatto, Natalì. Si sta pigliando questa cosa di ringhiare. E io lo picchio però a lui, a questo figlio d'un cane. Manuè, ti posso chiamare un attimo? E che inchiesta? Natale! Sì, Natalina è andato via. Che c'è sul canale 10? Nessuno. Perché mi porco? Posto. Natalino, ci sei, Natalino, Natalino, Emanuele, ci siete? Che sul canale 10, lo so che come ho detto siete tutti orecchi di porco, solo che non volete entrare. E gli spagnoli, ci sono, c'è un po' di propagation di nuovo. Chi è avanti? Chi è con questo pipiriolo? Cosa? E cosa ti fa male? La cosa che ti fa male? A me nulla, hai detto lui. A te, devo fare un piccolo discorso. Ma chi sei tu? Indovina Giovinetto. E non ti ho riconosciuto, dai, dimmi chi sei. Il Puglia, sono, il Puglia. Vabbè, se non ti vuoi presentare, allora no, è inutile parlare con te. Tanto ancora non riconosci le voci tu ancora, eh? Non riconosci le voci. Bobo, ma com'è che abbiamo frequentato assieme, eh? Con Atari. Ma chi sei, Leoncino? E Puglia sono, Leoncino sono, la mazza per eccetera. Ho questo apparecchio qua e non ti ho riconosciuto per quello. Capitina. Come ça va? Ça va bene, Hai detto delle cose che di te, penso che allucinanti, vero? Non ho capito. Ma il numero di telefono mio ce l'hai a telefonarmi, così ti comprendiamo meglio, che non mi arrivi tanto bene, Giuseppe. No, non ce l'ho io il tuo numero, non ce l'ho. Cazzo. Ah. E allora come facciamo? Antonello forse ce l'ha il mio numero. Fatelo dare da Antonello. Vabbè, già ci troviamo quando passo via al corso del stato. Io ti ho fatto un piccolo discorso a riguardo a una persona, dai. Riguardo a una persona? Vabbè. Chissà che non sia che aggiungerà a me tu, cani cavaddu, ed io non so chi scende da Gaza, perché non posso camminare, che mi è venuto questo coso alla gamba e non posso camminare, Giuseppe. E adesso tu sei preso di me, neanche io sono il ministro partito, lo sai. Meglio quello che c'ho io, da. Io non posso camminare perché, infatti, c'è la macchina lontano, dovevo andare ad affusare a comprare roba, non ho bisogno di andare. Me ne sono tornato indietro perché il dolore è troppo forte. Antonello comunque dovrebbe avere il numero mio. Capito? E così mi telefoni e io ce l'avevo il numero tuo, ma non mi ricordo se è quello giusto o boh. Ma proprio mi dà il tuo numero, non me la metto, stai tranquillo. Se vuoi te lo do, te lo stesso. Aspetta un attimo. Aia, mamma mia. Aspetta un attimo. Che prendo. Esci a vedere. Dimmi Giuseppe. Allora, 351. Vai. 994. Vai. 37. No, non l'ho capito questo. Sono arrivato a 4. 994. 37. E altro ce n'è. 59. E basta, questi sono. È quello il mio numero. E ok, aspetta un attimo, così me lo memorizzo, perché io ce l'avevo il numero, però non mi pare che sia Ghizzo. Ma chi è? È il numero di Cuocomane. Il numero di Cuocomane. E aspetta un attimo che me lo sto scrivendo. Ehi, ma quello che sta parlando con te chi è? Cuocomane? Quel Cuocomane di Giuseppe. Già l'ho sentito che lui. Ora prova radio, prova. 1, 2, 3, 4, prova. Io con i Cuocomane non ci parlo. Dimmi Antonio che mi hanno spostato. Con tengo acqua non esiste. La trienina, con la trienina li puliscono il circuito stampati o Antonio. La trienina, se ne hai, se no qualche lavasecco. Ma penso che la vendano comunque. Io l'avevo comprata una bottiglietta tipo succo di frutta, beh. Assolutamente. Tutti i tecnici usano la trienina per pulire i circuiti stampati o similari, capito? Però la trienina è sempre quella di vecchio stampo, dai. Quindi usa quella col pennellino e poi la fai asciugare, già evapora subito. Ho capito, per fare quella cosa che mi avevi detto. Vabbè, dai, bocca al lupo, mettiti l'impegno e finiscilo qualcosa, dai. Ok Antonio, rimango in ascolto, non mi voglio parlare, dai. Ci sentiamo, se mi devi dire qualcosa sono su WhatsApp, ciao. Figurati Antonio, se hai problemi già sai dove trovarmi, dai, sì, nei supermercati la vendono. Ok, ciao. Ecco. Di Lucrezia. Torra, mi chiamo Luca. Vedi, te l'ho detto, così almeno mi rispondi, perché se ti dicevo Luca non mi rispondevi. Ma io rispondo, se sto fischiando vuol dire sto controllando le stazionali, ma mi chiamo Luca, non mi chiamare così. C'è anche Gianni lo stesso, anche a Gianni glielo dico, non è che... Scusa Luca. E poi sento la te, sento e poi mi chiamano tutti così e poi mi si girano i pipizzi. Oh scusa, va bene. Scusa! Scusa! Ma non c'è nessuno. Non lo so, sono andata a fare una fotocopia, stavo stampando i registri, non so come si chiamano, praticamente visto che sai che apparecchi ho e non ho i canali, quindi mi sono stampato la tabella dei canali in frequenze e così mi sono notato 5 minuti e non c'era più nessuno. Delinquentica. E vanno via senza salutare. A quanto ci viene le stazionarie adesso? Adesso 1 e 1. Aspetta, mi sono io. No, poi non me lo stesso 1 e 2 da. Quando ti ho mandato un messaggio, Luca? L'audio. Sì, Ricca, sono in ascolto, io voglio parlare. Te l'ho già detto, non sono motivato in questo periodo. Buon questo, ciao. Sono salutati, ciao. Grazie dei saluti, ciao Ricca. E beh, che c'è? Che c'è? Ti ho mandato un messaggio, Luca, leggilo. Qualcuno sul 10? Hola? Buonasera. Qua è Marcus. Stavo finendo di pappare. Vedo molta assenza sul 10. Si sta svoltendo, peccato però. Forse mi pare di aver sentito Claudio anche metà serata o comunque prima, però non ne ho voglia di parlare. Poca gente, giustamente c'è chi ha ripreso a lavorare, che ha ripreso a uscire, eccetera, eccetera, già. Io sto rientrando adesso, ero fuori con amici, siamo andati a berci un caffè insieme e sto tornando, grazie a Dio. Magari gente che va sul 10 non vede almeno senti a nessuno, se ne va sul 23, se ne va sugli altri canali, capito? Ah, c'è gente sul 23, io qua c'ero il monitor con lo squelch per levare il soffio di fondo, ma non... almeno il volume era al minimo, non mi è sembrato di sentire nessuno qua almeno. Va bene, caro Gianni, che te devo dire? Vediamo se stanotte riesco a vedermi un film, o per una ragione o per l'altra non riesco a seguire più un film per intero alle, tipo alle 9, 9 e un quarto, il primo film. A chi lo dici? Io mi addormento sempre prima, poi mi risveglio, ho messo nel treno, il televisore acceso ancora. Allora, la cosa strana mia, no? Che io soffro di insonnia, no? Però se mi prefiggo di guardare telefilm, film a ora tarda, tipo alle 2, 2 e mezza, 3, mi addormento in poltrona, magari anche vestito perché io solo all'ultimo istante mi metto in pigiama, no? Proprio un istante prima di mettermi a letto. Mi addormento in poltrona, poi mi sveglio tipo alle 5 e mezza, 6, all'alba, con la TV accesa, ancora vestito. Ecco, una volta risvegliato, poi non riesco più a riaddormentarmi. È una cosa un po' variabile. Cioè, quando devo dormire non riesco a prendere sonno. Quando voglio vedere roba mi addormento. Capito già. E anche a me lo fa, Marco, non ti preoccupare. Anche io il film non le guardo più perché dentro riesco a seguirmi. L'unico cosa che riesco a seguirmi è un traffico poliziesco su rete 4 dopo le 3 e mezza, verso le 3 e mezza inizia e mi piace. Sono film polizieschi che a me piacciono, arrestano gente, fanno, mi piace proprio il tipo di film, là. Come riesco a seguirlo, se non mi addormento anche lì, se sono stanco oppure dopo pranzo mi frega. Sì, tutto strano, vabbè che io ho orari sempre sballati, quindi per esempio dopo il pranzo mio tardi, c'è volte che viene un po' di abbiocco alle 8, 8 e mezza, 9, sai. Però non fa assolutamente. Va bene, che te devo dire? Mi pare si è calmato anche il vento adesso, fuori. Non ha piovuto, si è un po' rimesso, anzi avevo pure caldo. Ho fatto una spesuccia qua vicino, minima. Però grazie a Dio poi a risalire col peso, con l'acqua, col cartone, col latte, mamma mia. Io l'ho fatta stamattina, mi sono diviso in due salate, la frutta e verdura mia preferita, e ho comprato queste ciliegie, guarda Marco, sembravano palloni da quanto erano grandi, belle, grosse, a 5 euro e passa, però erano anche un bel buone, e me ne ho mangiato troppe e mi hanno fatto male, mi hanno fatto finire la diarrea. L'effetto è quello. Sì, a me piacciono poi quelle grosse grosse, quelle scure scure, mi che sembrano color prugna, mamma mia che buone. Invece quelle più chiare, piccoline, sì le mangio però. Non vorrei confondere con le amarene però, forse sono considerate amarene quelle scure scure grandi. Boh. No, le amarene sono quelle selvatiche. Quanto stavo dicendo? Queste qui erano belle croccanti quando le mangiavi, dolci dolci, buone. Me le ho mangiato, ho visto di quella mamma di pavetta là frutta, uno di quelli in te. Fanno scorrere quelle lì, caspita già. Infatti mi raccomandavano, vabbè, da bambino di non fare scorpacciate perché sennò poi devo fare corri corri al vatte. Io ovviamente non ascoltavo e quindi mi facevo a pezzi con le ciliegie. Pure io. Vabbè, là, mi ho preso un imbuto, ma adesso speriamo che mi faccia bene. Siamo andati a berci un caffè con degli amici e niente. Meno male non mi è venuto mal di faccia. È brutto quando si è fuori casa. E una volta, lascia perdere una mattina, siamo andati tanti anni fa con gente a Calaviola a pescare, dovevamo anche tuffarci con la mutta, e mi viene questo, sai, il mal di pancia basso proprio, ed era, vabbè adesso non voglio stare a questi particolari al baracchino, acqua marrone, ho fatto appena in tempo arrivare proprio al bordo dello scoglio, a passarmi i pantaloni e poi questo vagliante marrone, da un paradiso che era l'acqua limpida, cristallina del di Calaviola, sembrava una fogna. Cazzo, sei tu che inquini il mare. In parte sì, io sono andato poi al bordo, no, perché poi ci dovevamo tuffare dalla punta dello scoglio, quindi muta tutto, problema che poi piano piano qualcosa è arrivato anche lì. Infatti un amico aveva fatto il commento, ma ci dobbiamo tuffare nella M tua. Tua amica? No, un amico lì. Sempre amici lì, perché vabbè, donne, poi sono percorsi anche difficili, cioè devi lasciare la macchina lontano, devi scarpinare un po' con lo zaino, in certi punti ti devi anche arrampicare, quindi le ragazze non erano molto esperte, diciamo. Sì, c'è via con mare, non sai cosa fa, fa arrampicata, ci sono ragazze che, ne avevamo anche acceso, quando facevo servizio a volta, facevamo discesa in corda doppia per incidenti stradali la notte, ci allenavamo le veloci che ci sono a saccarci lì, e c'erano ragazze che sembravano conigli che salendo. Guarda, era una cosa allucinante, più scimmie che conigli. Vabbè, lei è esperta in arrampicata, allora è tutto un altro discorso. No, ma poi c'è così, era il periodo che io ero, stavo con una, loro lo stesso, cioè noi uscivamo la domenica mattina e non volevamo rotture di palle, francamente. No, c'è l'altra ragazza, ecco, te ne vuoi andare con i tuoi amici? A me mi lasci sola, ma se siamo sempre attaccati, mattina, pomeriggio sarà, e quasi anche la notte. Io volevo i miei spazi, all'epoca, adesso ne ho pure troppi spazi. Vabbè, basta ricordarti, già si giova. È giovane che ha 15 anni, 18. Vabbè. Insomma, non entra in ciurda, ma non è successo nulla, no? Tutto tranquillo. Ah no, a parte, vabbè, a parte la spesa del microfono con l'eco dell'altra notte, che a molta gente non scende giù, nemmeno a me, che non volevano che mettessi l'eco praticamente, che dava fastidio. Ma se tu esci con l'eco, è logico che dai fastidio, no? Ciao. Adesso metto anche il bip. Oh yeah. Ciao, il bip ti raccolte, ciao a te. Ciao a tutti, ciao. Da oggi modulo con l'eco. Tutti con l'eco sul canale 10, aiuto. Questo apparato non ce l'ha, porca miseria. Fare un apparato adesso è tragico. Un cambio di apparato. Te lo presto io. Guarda, qualche sera fa era successo, tu mi pare tu forse eri a Privilecco, allora ho attaccato un altro, l'ho attaccato anch'io, un canale di eccatori. Questo qui è il canale delle persone che alzano i microfoni e che mettono l'eco, se da voi allora se non piatti non sta fottuto. No vabbè, ma se il discorso era quello vecchio, no? Che magari c'è qualcuno con la modulazione normale di notte, più che altro di notte, di stare un po' alza e abbassa, alza e abbassa, quello vabbè. Poi io, ricordati, io sto sempre col volume un po' al minimo per non disturbare mamma che vede la TV nell'altra stanza, no? Però lei il volume già lo alza, quindi in realtà lei che disturba me con la TV, capito? Marco, ma il mio eco può disturbare, secondo te è regolato così, può disturbare? Ma non ha risposta. A parte che così non vi nevi, ecco. E già c'è un po'. Sì, ma devo attaccare l'orecchio alto parlante, cioè così no, però certe volte è più spinto, certo, sai cos'è, a me prende mal di testa alle volte un po'. Poi vabbè, a me l'eco non, cioè non mi è mai piaciuto, nudo e crudo, come dico io, come quel programma tipo nudo, crudo e scappellato, anche vai Tino. Scappa dai Marco, vabbè, anche a me, devo essere sincero, anche a me non piace l'eco, ma mi piace scattiare, mi piace scherzare, mi piace metterlo nel 45, mi piace metterlo quando voglio fare qualche scherzo, non è detto che poi gusti e colori, io credo che non si discutano in ogni senso. Scusate che non basta. Io ho sempre imparato che dopo la tua di libertà c'è, viene quella degli altri, quindi bisogna rispettare tutti. Sì, quello sì, ma al limite se uno te lo chiede per favore, no? Come potrei essere io, magari metti che forse te l'ho detto già, non è che puoi abbassare un po' l'eco, no, per la comprensibilità più che altro. L'altro giorno, aspetta, ho sentito un discorso dell'effetto elicottero, no? Che tu dicevi che c'era, no? Con quell'apparato, però chi ascoltava non lo sentiva, ma come effetto elicottero cosa viene inteso esattamente? Quando tu tieni, dopo che parli, tieni il microfono con il PTT abbassato, fa un wow, wow, wow, wow, wow, quello lì è l'effetto elicottero. Però c'era da te, diciamo che era lenta come ripetizione, forse una frequenza più alta intendevano loro, capito? Una velocità maggiore di ripetizione tu lì. Me un extrasistole, mamma di turchi, ti toglie il piatto, E boh, questo cuore colpi sta perdendomi, sta battendo in testa questo. Vabbè, tanto mica non mi si bolzani, ho finito di soffrire. Ma scusate che avevo una bassa in corso, dove eravamo rimasti? Capatino, che Marco sta facendo il tragico, ha detto che il cuore sta prendendo colpi e che quando lo dirubo, quando muore si rubussa. Auguri Marco, no, io non sono del tuo parere, però in che anno sei? Classe 70? 71. Sei un anno più piccolo di me, quindi non sono proprio del tuo parere, guarda. No, vabbè, sono extrasistole di origine nervosa, il cuore è sempre stato, però sai, quando vengono più frequentemente seccanti.